Ponente, la restaurazione e infine il decennio 48-59, che per il quale ancora una volta possiamo utilizzare l'abusato termine di decennio di preparazione, ma che va sempre molto bene, perché in altre parole questa scuola di abitazione di Torino, che viene istituita dalla legge Casati, non è una pura ed estrinseca scelta di imitazione del modello francese in quella fase abbastanza complessa, ancora abbastanza poco chiara, anche perché ci sono dei seri problemi, cioè in realtà non ci sono documenti della fase della lavorazione della legge Casati, sono comunque abbastanza frammentari, quindi non è una così una imitazione estrinseca, ma è il risultato di un processo di lungo periodo, in cui c'è indubbiamente il di modelli francesi che si intreccia con una storia culturale e istituzionale locale che va anche questa riconosciuta. Ecco, io devo dire che ho portato un testo piuttosto lungo, che ovviamente cercherò di riassumere, se esagererò nella raccolta andiamo a fare qualche segno, cioè ho davanti l'orologio. Se dovessimo partire dando uno sguardo complessivo all'apparato statale San Paolo come ci arriva alle soglie degli anni 90 del Settecento, noi potremmo, considerando le soglie degli anni 90 del Settecento come la conclusione di questo processo di riforme che parla della storia medio secondo, possiamo dire che questo apparato statale si è costruito attraverso un modello amministrativo basato sull'accentramento, sulla divisione delle competenze nelle segreterie e nelle aziende di Stato e sulla presenza dello Stato stesso negli spazi locali attraverso gli intendenti. L'apparato burocratico che noi troviamo negli uffici era formato in prevalenza da individui di nobiltà recente, nobiltà di carriera e di solito formati dalla proprietà di legge. Il risultato di questo processo era stata la creazione di una nobiltà di servizio con un forte senso dello Stato, un'ideologia della competenza e una notevole capacità di vivere il rapporto tra politica e cultura come etica professionale. Se il modello amministrativo di riferimento per lo Stato Sabauda era stato quello francese, rispetto a quel modello, l'esperienza Sabauda aveva però alcuni caratteri di originalità, complessità e organicità. La perequazione del sistema fiscale connesso, con le possibilità di conoscenza e di controllo anche economico del territorio che viene organizzato, la precocità delle riforme scolastiche, con tutte le conseguenze di lungo periodo, non solo sul miglioramento delle professioni, ma anche sulla qualità della società civile, il ricambio della classe dirigente e la forte omogeneità di questa con tutti i valori funzionali della buona amministrazione, questi sono i caratteri profondi che non ho individuato io, che hanno individuato Giuseppe Recuperati nei suoi studi e hanno avuto una somma, diciamo, nel volume della storia d'Italia che è uscito l'anno scorso. Comunque questi sono i caratteri profondi che l'assolutismo ha impresso alla società sabauda. E direi che questo quadro, soprattutto queste figure di funzionario a servizio dello Stato con una sua tipicità proprio professionale, va un po' tenuto presente fino ad arrivare ai funzionari che poi entreranno nello Stato italiano. Ecco, se sicuramente l'apparato amministrativo Sabauda vede la presenza di questi avvocati burocrati come figura forte, va anche detto che in particolare forte organi consultivi si era venuto formando un personale tecnico fornito di competenze specifiche per operare in beni individuati settori della vita amministrativa e militare e economica dello Stato. Per studiare questo apparato tecnico, certamente una chiara lettura privilegiata che viene crescendo nel corso del Settecento è quella dell'elemento militare. Nel duplice senso, in alcuni casi si tratta di corpi militari che hanno funzioni anche civili, in altri casi si tratta di organi che una delle massime imprese del ritornino sabato è stata la tariffazione fiscale 1697-1730, ma al di là di questa grandissima operazione catastale, l'ulteriore consolidarsi degli apparati statali per la difesa strategica, per il governo delle risorse dello Stato, agricoltura, miniera, delle acque e delle verità, impone di poter disporre di ulteriori strumenti rapidi di conoscenza e di aggiornamento sulle situazioni locali. Accanto alle relazioni che i funzionari sono richieste con tanta maggiore frequenza, una funzione determinante sulla una sintesi di cura più occupata. Quindi arriviamo all'ufficio. L'ufficio che si forma è l'ufficio topografico nel 1738 all'interno dell'azienda Fabbrica di Fortificazioni, che è appunto l'organo supplettivo dell'apparato militare sabaudo. Questi ingegneri sono denominati ingegneri topografi. Quindi, fin dall'inizio, provengono in prevalenza dalla carriera di ingegneri militari, anche se in realtà c'è anche una possibilità di carriera interna, cioè anche gente che parte dal basso come aiutante può, se dimostra la propria competenza, può salire di grado. E direi che l'altra cosa interessante da tenere presente è il fatto che spesso vengono richieste prestazioni a tecnici strani in ufficio, che vengono convocati per servizio regio. Quindi questo significa che comunque al di fuori dell'ufficio topografico esistono comunque delle competenze della società civile che vengono utilizzate dallo Stato. Mi fermo un momento solo a sottolineare che nel 1777 questo ufficio riceve una nuova ristrutturazione con un organico ben definito, con un direttore topografo, 7 ingegneri topografi e poi una serie di altri assistenti a loro sottoposti. E è interessante il fatto che questo nuovo ufficio topografico ha anche una funzione didattica, cioè un po' come le cose Ponte Sauchet, cioè gli ingegneri topografi devono formare gli assistenti devono formare i trabucanti e questo è il modo per fare carriera all'interno dell'ufficio. Va bene, è evidente che essi hanno una funzione fondamentale, pensiamo ad esempio di come che hanno, dico brevemente alcune delle grandi operazioni cartografiche che essi compiono, la rilevazione delle valli negli anni 50-57, la misura delle serre di boschi nell'Alto Novarese, delle valli Sesia, Aosta, Andorno, Lanzo, Susa, per uso delle miniere tra 52-66, le carte dei confini tra 51-96, le carte d'uso della corte. Sulla base di tutte queste conoscenze, che sono sempre accompagnate dalle relazioni che i cosiddetti argomenti politici elaborano, in questo periodo c'è stato un discorso sulla statistica che parte appunto in Piemonte dal 700, poi va avanti per il 1800, ma questa va a perdere, sappiamo che esiste, quindi ciao. Ecco, comunque sulla base di tutte queste conoscenze lo Stato potrà operare le disponibilità per la conservazione del patrimonio boschivo, per l'organizzazione delle regime delle acque, per una realizzazione per una razionalizzazione delle risorse agrarie e minerali disponibili. Ecco, altro corpo, che non è proprio un vero corpo, ma in questo caso un organo consultivo, è il cosiddetto Congresso di Architettura. Il Congresso di Architettura è istituito da Vittorio Medio III nel 1773 per garantire estetica e sicurezza, cioè bisogna fare, dicono le leggi istitutive, fabbriche conformi alle regole della soda. Quindi estetica e sicurezza dello sviluppo urbano. Quindi nel 1777 questo congresso dell'architettura prende il nome di congresso degli edifici ed è un organo consultivo che però a un certo momento assumerà anche funzioni proprio deliberanti, cioè praticamente tutti i progetti dovrebbero passare attraverso questo congresso degli edifici che va avanti fino all'Unità d'Italia. Ha una continuità notevolissima, anche se cambierà poi la sua composizione, come vedremo. Quello che è importante notare è che la maggioranza dei membri di questo congresso, o di questo congresso di edili, sono ingegneri militari. Ed è sempre il presidente di questo congresso è sempre un ingegnere militare. Ne fanno parte anche ingegneri civili, no? Anche diciamo, gli architetti civili, però la prevalenza è di questa. L'ultimo discorso che si può fare mantenute, anche perché questo permetteva una migliore difesa dei confini, no? Per confini militari. Come sempre, c'è sempre qualcuno che fa delle visioni della fotografia precedente, c'è questo esibito bel saggio, grosso saggio di Maria Teresa Scurani sull'ultimo, qualche anno fa, del bollettino storico bibliografico su Balbino, che ha ripreso tutta la, diciamo, la storia della, delle infrastrutture stradali sabaude nel corso del, dal 500 fino al 700, e ovviamente ha riconosciuto le carenze di questa rete infrastrutturale, ma anche visto le cose buone che sono state fatte. In realtà anche qui il 700 è un momento di trasformazione. Gli elementi di innovazione sono due. Uno, che c'è una nuova situazione territoriale, cioè le tre guerre di successione portano a una crescita dello Stato in direzione orientale. Dall'altro c'è un rinnovamento anche qui dell'amministrazione stradale, che mentre in precedenza è sempre stata affidata alle autorità locali e controllata a livello centrale da una figura un po' generica di conservatori generali, invece ora viene affidata a una direzione generale di Ponte e Strade, da cui dipendono gli intendenti provinciali, che a loro volta controllano gli amministratori stradali, gli amministratori locali. Ecco, il grande limite di questa amministrazione delle strade è l'assenza di un adeguato supporto tecnico. Cioè la direzione delle strade si serve di perizi, di architetti, di ingegneri che vengono assunti al momento per fare le opere, ma manca una cultura tecnica specifica in fondo. Mentre prevale invece il principio della massima economia, che se mai l'ha fatto. Lo spirito del sistema sabaudo appare effettivamente lontano sotto questo aspetto dall'esperienza del vicino Stato francese. E non a caso a questa esperienza fanno riferimento le relazioni degli intendenti di fine Settecento. Ecco, io infatti ho questa piccola citazione: la costruzione delle strade e ponti è una parte di architettura non conosciuta e studiata abbastanza. In Francia, dove ci sono fatte le strade che emulano veramente la grandezza romana, si trovano impiegati in presenza che chiamano di ponti e strade persone di valida. E siccome lo avere esperti architetti che fossero persone d'onore sarà il fondamento di tutta l'amministrazione di cui si tratta, sarebbe ottima cosa l'animale sempre di più lo studio di tale specie di architettura, i vecchi corpi di artiglieri e degli ingegneri. Ecco, questo discorso qui dei vecchi corpi di artiglieri e degli ingegneri ci permette di capire che in realtà le direzioni di queste strade venivano, la direzione della costruzione delle strade quando veniva fatta veniva affidata di solito a ingegneri militari. Questo ad esempio avviene per quella grande operazione di costruzione della rete viaria a Torino, Cuneo, Nizza, che è una delle grosse operazioni che viene attuata sul 700 in questa strada, viene resa carreggiabile ed è tutto fatto in funzione del ripotenziamento del porto di Nizza, cosa che poi in realtà di fatto sarà un'operazione perdente, così come viene affidata la direzione dei lavori di manutenzione della strada per il Moncenizio, viene sempre affidata a questi ingegneri militari, anche se poi i lavori intervengono anche architetti civili. Ecco, allora a questo punto noi siamo arrivati a parlare di questi ingegneri militari. Quando si forma un corpo reale di ingegneri militari in Piemonte? La costituzione ufficiale è nel 1752, ma la qualifica di ingegnere militare assume in area sabauda un carattere ufficiale fin dal primo ventennio del Settecento nell'ambito delle aziende di artiglieria e di fabbriche e fortificazioni. Nel 1733 lo sdoppiamento dell'azienda per la crescita continuo delle competenze si attua attraverso un intendente generale di artiglieria e un intendente generale delle fabbriche fortificazioni. Questo sdoppiamento dell'azienda può considerarsi la premessa istituzionale al progetto di piano complessivo di Ignazio Bertola per la scuola militare di fortificazione. Ecco, Bertola è un caso abbastanza interessante perché Bertola è un laureato in legge che diventa architetto civile militare soltanto nel 1708, successivamente alla sua grossa al fatto che lui aveva diretto durante la sede di Torino nel 1706 gli ingegneri che avevano concentrarsi, uno degli ultimi esempi, un esempio eccellente evidentemente, ma ormai destinato ad esaurirsi, di quella formazione culturale molto varia che aveva caratterizzato gli architetti civili e militari sabaudi negli anni 30 del secolo, che appunto si formavano come autodidatti, come praticanti professionali, come studenti di beni artistiche, direttori di architettura, che in precedenza erano stati o continuavano ad essere sacerdoti, uomini d'arte, avvocati, notati pure di un adesso io, visto che siamo un gruppo ristretto di persone che probabilmente hanno tutti letto i lavori di Ferrone, è inutile che stia qui a fare tutta una, non solo i lavori di Ferrone, ma anche il lavoro, il saggio che tu hai dedicato alle scuole di antiquaria e alle lezioni di analisi di Lagrange, non è il caso che io stia qui a fare tutto un discorso molto specifico su queste scuole di antiquaria, salvo notare almeno questo discorso, che il progetto di Bertola prevedeva questa scuola come il massimo centro di formazione di tutto il personale tecnico al servizio del sovrano, sancendo dunque attraverso la richiesta di una nuova scuola specifica la nascita di una vera e propria elite tecnocratica all'interno dell'apparato amministrativo. Quello che è molto importante dire del nostro discorso è che, secondo Bertola, solo i cadetti usciti dalla scuola, nobili o borghesi che fossero, avrebbero avuto l'esclusiva del titolo di ingegnere, mentre i tecnici esaminati e laureati dall'università dovevano accontentarsi di quello di architetti. Inoltre, venivano richieste ampie garanzie sull'impiego di cadetti in tutti i centri nevralgici della parte statale sabaudo, non solo nell'esercito, ma appunto, come abbiamo visto un po' nei casi precedenti, nell'apparato pubblico civile, come ingegneri provinciali, ispettori delle miniere, delle fabbriche di munizioni ed armi, controllori delle amministrature tecniche, sovrintendenti in pompe, le strade e tutto il resto. Questa scuola, che viene aperta nel 1739, ha un nuovo ordinamento didattico nel 1755, che corrisponde al fatto che si sono formati da un paio d'anni questi due nuovi corpi tecnici, da un lato il corpo degli artiglieri e dall'altro il corpo degli ingegneri militari. Vorrei solo ricordare, oltre al saggio dell'84 di Ferrone, quello che diciamo per primo fosse introdotto questa tematica negli studi sullo scientismo, sulla formazione degli apparati tecnici sabaudi, un recente studio di Ferrone che ha ripreso nel volume di saggi di Noi di Studio Diaz, in cui ha riaffrontato l'ottica proprio di queste scuole, proprio sotto l'ottica dei meccanismi di formazione delle sabaudi, e ha proprio sottolineato con molta forza il fatto come attraverso queste scuole, attraverso il principio dei concorsi, venga affermato il principio della competenza, venga introdotto quello del principio della selezione e del mutamento sociale. Cioè queste scuole permettono a una serie di cadetti di origine borghese di entrare non soltanto nell'esercito, ma di entrare poi assumendo compiti direttivi di primo piano. E d'altro canto costringono l'aristocrazia a misurarsi sul piano della competenza sul piano della competenza con queste nuove leve di concorrenza. Altri due aspetti che vanno sottolineati sono, da un lato, il fatto che all'interno di queste scuole di artiglieria il nesso che viene stabilito tra queste scuole di artiglieria e la nascita del movimento scientifico. Cioè anche il movimento scientifico in Piemonte ha origini statali, trova le sue radici nell'istituzione statale e non nella società civile. Anche qui risparmio tutto il discorso sul fatto che nasce un arsenale, che nascono dei laboratori, che immagino che più o meno tutti li sappiamo, ma invece mi interessa riprendere, perché questo è importante nella logica del nostro discorso, il fatto che dopo la logica molto interna alla cultura militare che era prevalsa nel progetto di Bertola, dagli anni 50 c'è anche un'apertura verso la società civile e verso il mondo accademico universitario. Cioè non solo abbiamo il periodo di lezioni di Lagrange, ma anche un altro grosso personaggio come Francesco Domenico Michelotti, che era professore di matematica all'università, insegna a queste scuole e si crea una fitta trama di rapporti tra le scuole di artiglieria e scienziati non militari come Garo, come Beccaria, come Cina, tutto un insieme di forze da cui nascerà nel 1756 la società privata torinese e da cui poi nascerà nel 1783 l'Accademia delle Scienze di Torino, che è in qualche modo finalmente, se possiamo dire, la risposta finalmente della società civile a tutti questi impulsi di tipo statale. Qui introduciamo il personaggio Lagrange, parlavamo prima con Pepe, l'influenza di Lagrange sulla cultura tecnico-scientifica piemontese è enorme, ma direi che forse sarà più importante vederlo non tanto in questo momento, perché appunto ci speriamo a Lagrange di mandarsi in terra a Torino, e come tra l'altro ci sia da parte di D'Antoni anche un disconoscimento della realtà delle sue lezioni e questa mediazione con una collezione, no? Si passa dai principi di analisi, dai principi di matematica sublime, come tu hai dimostrato, dove in realtà scoppiata Lagrange ma in modo non proprio corretto. Ecco, direi che Lagrange tutta la sua tradizione verrà poi ripresa invece quando gli ingegneri piemontesi andranno tutto appunto a studiare le cose politiche. A questo punto però vanno recuperati gli ingegneri civili, no? Perché è vero che gli ingegneri militari sono importanti, ma è vero che in Piemonte ci sono anche gli ingegneri civili. Qui vorrei soffermarmi su un regolamento che secondo me è molto interessante del 1724. È una proposta di regolamento degli ingegneri civili, ossia un architetto degli ingegneri militari, un regolamento anonimo, per avvicinare, dice questo estensore di questo regolamento che si rivolge comunque al sovrano, per avvicinare di più la loro perfezione tanto per il servizio dei principi che per l'ordine del pubblico. E fa vedere chiaramente come appunto in questi anni la possibilità che al servizio del sovrano della società potesse avere una funzione molto più forte l'ingegnere civile rispetto all'ingegnere militare fosse possibile, mentre poi in realtà la storia della formazione dello Stato Sabau, ma anche tutta una serie di problemi legati alla difesa dello Stato, al rafforzamento dell'esercito, fanno prevalere nel 700 la figura dell'ingegnere militare. In effetti, in questo regolamento all'ingegnere militare vengono dati pochissime importanze. Si dice semplicemente che gli ingegneri militari sono destinati al servizio del principe e il loro compito è quello di difendere la corona e di offendere i suoi nemici. E come tali vengono liquidati. Mentre viene dato grande importanza all'ingegneria civile. Ingegneri civili, civili graduati e civili esaminatori. Si passa da una classe all'altra, cioè si arriva ad essere ingegnere civile e esaminatore partendo dalla classe prima, cioè quella di ingegnere civile. Agli studenti si dice sarà lecito supplicare per ottenere il titolo di ingegnere civile per ottenere quello di graduato e graduato infine quello di civile esaminatore. Ma la supplica deve essere rivolta al sovrano, che affiderà il compito di giudicare le modalità degli aspiranti sempre solo alla classe dei civili esaminatori. Evidentemente i civili esaminatori sono quelli a cui è chiesta una preparazione maggiore e a cui sono attribuiti compiti professionali più importanti. Gli ingegneri civili esaminatori dovranno sapere tutto ciò che appartiene ai graduati e di più dovranno intendersi nella filosofia o almeno nella logica. E poi dovranno sapere i libri dei muri, dei solidi di Euclide, la teoria delle meccaniche, misurare e ripartire le acque correnti, riparare i fiumi correnti ed ogni altra cosa che in pratica nella professione possa accadere. Quindi possiamo dire che il progetto delinea un vero e proprio collegio professionale, ma che trova nel sovrano la propria legittimazione, che disciplina l'attività dell'ingegnere sia per il riconoscimento delle sue competenze, anche se proprio non viene mai specificato dove devono essere acquisite. Si parla all'inizio genericamente di studenti, sia delle sue funzioni, a cui però corrispondono diverse tariffe professionali, perché l'altra cosa abbastanza singolare di questo progetto è il fatto che qui nel progetto si dice, siccome l'onore Per cui, siccome così trovandosi più aperta la via per crescere loro a quelli che in avvenire vorranno gli altri distinguersi, rimane a cercarsi il mezzo per premiarli, senza che i principi vi spende del suo e senza che il subito venga aggravato. La soluzione è quella di fare delle tariffe diverse a seconda delle fonti, cioè il GRC che prende meno, il graduato in cui ci esamina ancora di più. Per cui a questo punto, se uno vuole guadagnare di più, deve studiare. Nel 1737 si stabilisce una facoltà autonoma delle arti, con la formazione del relativo collegio universitario diviso in tre classi, che queste classi sono corrispondenti alle tre diverse funzioni della facoltà. Dei filosofi, entro cui è compreso anche il professore di fisica sperimentale, e qui ritorniamo al famoso discorso che abbiamo già introdotto ieri, dei matematici e dei retorici. La facoltà delle arti, che conferisce il grado del magistero, assume il duplice ruolo di canale propedeutico per l'accesso alle tre facoltà di legge, medicina e di teologia e di centro di formazione per gli insegnanti delle scuole secondarie statali, che Vittorio Amedeo aveva iniziato ad organizzare a partire dal 1729. Inoltre, è davanti a questa facoltà delle arti, cioè in particolare davanti alla classe di matematici, che verranno esaminati gli architetti, i misuratori, i maestri dei conti. Ma non solo vengono esaminati, ma saranno approvati e ritireranno le patenti per l'esercizio delle loro arti. Quindi l'università ha una duplice funzione, non solo di accertamento delle competenze, ma anche di rilascio del titolo di studio, che ha valore, chiamiamolo così, legale. Ecco, passo semplicemente adesso, per brevità, al 1771, quando le Costituzioni del 1771 definiscono il corso di studi per gli architetti idraulici civili. Allora, mentre in precedenza nei titoli anche per gli architetti civili si trovava ancora il termine di ingegnere civile, col 1771 il termine di ingegnere sparisce. Cioè gli ingegneri sono solo ingegneri. Per gli ingegneri che possono in realtà ingegneri civili si usa il termine di architetti. E gli architetti sono gli architetti idraulici e gli architetti civili. Sono gli architetti idraulici quelli considerati più importanti, quelli per cui la formazione è maggiormente curata. Infatti gli architetti idraulici devono seguire l'intero corso di matematica in questa università, cominciando dalla geometria, mentre i secondi attenderanno solo allo studio di geometria. Due sono i professori previsti, uno insegnerà in un anno gli elementi di aritmetica universale di geometria piana e solida, l'altro darà in 5 anni il compimento dell'intero corso di matematica, che è appunto riservato agli idraulici, e nel primo anno insegnerà l'algebra e la trigonometria piana, nel secondo le sezioni coniche, i luoghi geometrici, le costruzioni delle equazioni di grado superiore, nel terzo l'analisi degli infinitesimi, la teoria generale delle curve e l'istituzione dell'architettura civile. Nel quarto la teoria del movimento dei corpi solidi, cioè la meccanica, e nel quinto quella dei fluidi. Pur con tutte le carenze didattiche che sono immediatamente percepibili nel fatto che un solo docente in realtà doveva nel corso di 5 anni insegnare tutta la matematica, e quindi evidentemente questo portava dei problemi didattici evidenti, questo corso, con un corso di matematica pure mista, è un vero e proprio corso di ingegneria. È il discorso che abbiamo affrontato anche tu prima, e in cui si riconosce definitivamente la teoria e il ruolo di sostituibile base disciplinare per poi procedere alle applicazioni, introducendo dunque anche in Piemonte quella scienza dell'ingegnere che era stata sistematizzata da Belidor nel suo trattato manuale del 1629, appunto intitolato La scienza degli ingegneri, in cui egli dava regole certe, generali, teoriche per risolvere i diversi problemi della pratica ingegneristica. Non a caso un altro fondamentale trattato di Belidor, idraulica, è uno dei testi più citati da Francesco Domenico Michelotti, che è professore di matematica all'università, e che era stato fondatore del laboratorio idraulico della Parella, che era stato fondato nel 1763, sempre sotto l'egida statale, per studiare i fenomeni idraulici legati al problema della misura dei cosiddetti bocchetti ruggidi di irrigazione delle acque per l'irrigazione. E da notare che questo laboratorio della Carella ha anche una funzione di centro ufficiale di controllo, cioè tutti i, i, problemi relativi alle controversie in materia d'acqua venivano risolti facendo riferimento a questo laboratorio, quindi anche qui questo continuo intreccio tra formazione statale, riconoscimento da parte delle competenze da ordine dello Stato e nello stesso tempo luoghi che sono anche luoghi di competenze di tipo amministrativo e giudiziario. Vorrei citare soltanto il titolo del trattato di Michelotti, quello dove egli appunto descrive gli esperimenti fatti da Parella, perché è una specie di archetipo di quello che poi sarà un po' tutto il modo con cui gli ingegneri piemontesi, anche nell'Ottocento, imposteranno i loro studi. No? Si chiama esperimenti idraulici diretti principalmente a confermare la teoria e a facilitare la pratica del misurare l'acqua. Cioè in questo titolo si esprime appunto questa tradizione di studi ingegneristici applicati che in area subalpina stabilisce un nesso profondo tra la trattazione matematica e i dati sperimentali, secondo un procedimento di indagine di tipo deduttivo. E noi troveremo questo tipo di impostazione nella manualistica e nella trattatistica dell'ingegneria torinese fino alla fine dell'Ottocento. Ecco, due dati solo per dire quanti erano poi questi ingegneri, perché uno diceva quanti erano, e poi passiamo all'età francese. Nel corso del Settecento, secondo uno studio di una trentina di anni fa di Luca Braida e dei suoi collaboratori, che comunque è ancora uno studio fondamentale, sono ingegneri appunto piemontesi tra 6 e 700, nel corso del 700 si laureano 358 ingegneri, quindi una media di 5 ingegneri all'anno. Per dare un termine di paragone, i laureati in legge dal 1722 al 1798 sono stati 4802, mentre quelli in medicina dal 1711 al 1798 sono stati 2064. Quindi vabbè, vedo subito un po' la differenza. Sono stati 358. Ecco, passo adesso all'età francese, anche perché mi stringono, e anch'io ho trovato, tu avevi citato ieri quella raccolta di saggi a nome dell'acqua imperiale, con questo sottotitolo, trasformazione di comunità istituzionale nel territorio sabaudo di Napoleonica, ed effettivamente anche per la storia degli ingegneri possiamo vedere trasformazioni in continuità. Cioè sul versante delle istituzioni militari di età napoleonica sì, una cesura radicale con la spiemontesizzazione dell'apparato medico sabaudo, la chiusura delle strutture formative, scientifiche e produttive che quando riattivate sono messe sotto la totale tutela degli ufficiali e dei tecnici francesi. Per quanto riguarda invece l'università, la chiave di lettura che ha individuato, che ha fatto il saggio sull'università, che è poi Romagnani, e che io accetto ma che mi sembra abbastanza convincente, la chiave di lettura del processo è quella invece della continuità. Il filo rosso che percorre le vicende di istruzione universitaria degli Stati ex Sabaudi dal 1799 al 1814 è infatti rappresentato dalla solida tradizione del riformismo settecentesco piuttosto che dal modello rivoluzionario. E non è un caso che proprio dal Piemonte siano venuti a Napoleone alcuni suggerimenti essenziali per attuare tra il 1805 e il 1808 il grande piano di riforma dell'Università Imperiale. Quello che possiamo notare per quanto riguarda gli studi di ingegneria è che in realtà, o di matematica come li vogliamo chiamare, che in realtà tra il 1800 e il 1808 c'è addirittura una contrazione delle cattedre piuttosto che un ampliamento delle cattedre, anche se l'università continua ad esaminare agrimensori, misuratori, architetti civili ed idraulici, come aveva fatto anche durante gli anni di chiusura dell'università. Cioè c'è questo bellissimo registro, come al solito non si vede di portare le cose, abbiamo fatto la fotocopia di questa pagina, dove si vede che si arriva alla 98 con l'ultimo ingegnere del CNRGIM, poi libertà, uguaglianza e virtù, e ricominciano tranquilli avviati a fare i loro esami come se nulla fosse, e questo registro va dal 1759 al 1738. Quindi ancora una volta l'Università Sabauda non è solo il centro di formazione ma anche l'organo supremo di controllo e di abilitazione delle professioni. possiamo citare soltanto rapidissimamente, proprio per questo discorso del fatto che in Piemonte, nell'Università Piemontese, nell'Università Sabaudo, non c'è uno sviluppo di insegnamenti scientifici, almeno fino al 1810, quando c'è una prima riforma della facoltà di scienze, che in realtà comprende 10 cattedre, e alla fine questa facoltà di scienze diventa la maggiore dell'impero dopo quella di Parigi. Il fatto che Prospero Balbo, che era il rettore dell'università e che era stato appunto scelto da Napoleone un po' come continuatore, con garanzia della continuità rispetto all'ancien regime, trova proprio insoddisfacenti l'organizzazione degli studi matematici e presenta un piano radicale di ristrutturazione di questi studi. Studi che sul modello dell'università imperiale partono dall'insegnamento medio e salgono fino all'insegnamento superiore e si concludono con appunto delle specializzazioni post laurea conseguibili circa 25 anni in architettura di ingegneria idraulica. Comunque questo progetto viene mandato a Parigi, viene considerato molto interessante, ma non viene attuato, e vale la pena di citarlo soltanto per indicare una certa insoddisfazione evidentemente a livello locale di come erano organizzati gli studi a Torino. In realtà qual è il provvedimento di maggior portata per gli studi di ingegneria in Piemonte? Quello che è già stato citato Severi che stamattina da Pepe, cioè la decisione di ammettere nel 1802 anche i giovani piemontesi al concorso per le corti di Piemonte. I piemontesi che tra il 1804 e il 1813 sostennero felicemente l'esame o a Torino in altre sedi sono complessivamente 22, a cui si deve aggiungere Giovanni Plana, che era stato ammesso nel 1800 dopo aver superato l'esame alle lunghe. Dunque, a parte Plana, dunque, tutti i giovani piemontesi frequentano il coro quando essa è militarizzata, ma forse questa non è la cosa più importante. E invece molto più importante è il fatto che Plana compreso la frequentano quando ormai è sotto la direzione di Laplace, ma non più sotto la direzione di Monge, quindi quando prevale il modello didattico di tipo analitico rispetto al modello didattico invece enciclopedico e che trovava la sua coordinamento generale di una geometria descrittiva che invece era il modello iniziale di Monge. E che cosa trovano? Trovano nelle corpo di tecniche, trovano anche quella Lagrange che appunto si era allontanato da Torino e il cui ruolo è tutt'altro che marginale all'interno delle corpo di tecniche nonostante il suo corso sia facoltativo. Infatti con l'appoggio di Laplace all'inizio dell'Ottocento si afferma all'interno dell'école quel programma lagrangiano che consiste nel ridurre tutta la meccanica e la geometria all'analisi e se stessa poi ridotta a calcolo puramente algebrico. Sarà questa formazione che gli allievi dell'Ecole riporteranno in Piemonte e questi allievi faranno poi carriera nell'esercito, nel genio militare, nel genio civile, nel corpo delle miniere. E soprattutto sarà questo programma che verrà ripreso integralmente da Giovanni Plana, che è titolare prima di astronomia all'università nel 1810 e poi anche invece poi di analisi dal 1814 praticamente fino all'unità d'Italia. Plana è veramente un fanatico un po' di Lagrange, no? Sella testimonia che Plana a lezione diceva sempre che Lagrange era il gran maestro di quello che sanno, no? E cioè sempre, e una delle sue ultime imprese, ormai vecchia e stanca, è quello di fare la sottoscrizione per fare un monumento a Lagrange, no? Che è proprio. E infatti a Torino c'è un monumento a Lagrange, no? Ecco, l'altro aspetto che va sottolineato sul versante delle trasformazioni è quello che l'annessione del Piemonte alla struttura amministrativa francese significa, è il fatto che l'annessione del Piemonte alla Francia significa l'introduzione in Piemonte della struttura amministrativa francese, a cui si accompagna con intensa politica di lavori pubblici che se è realizzata da Napoleone in tutto l'impero è particolarmente intensa in Piemonte, soprattutto nel settore della grande debilità, perché Piemonte viene considerato il paese ponte verso la penisola italiana e da essa verso il Levante. Ricordiamo tutti le grandi strade della Sardegna, del Moncinisi e del Moncinegro, l'estensione della rete viaria verso sud con i collegamenti verso la Liguria, ma anche poi tutto il grande processo di trasformazione del tessuto edilizio in urbano, per esempio con lo smantellamento delle cinte murarie a Torino, a Cuneo, a Ceva, a Tortona, ad Asti, che significheranno tutto un processo di trasformazione del tessuto edilizio urbano. Questa attività avviene sotto la direzione degli ingegneri del Corps de Ponte Chaussée, che presiedono la direzione dipartimentale di ponti, strade, navigazione e irrigazione, e che quindi portano a contatto dell'ingegneria civile piemontese la loro grande esperienza tecnica e soprattutto quel principio di coordinamento rigoroso per tutti gli interventi da effettuare sul territorio che l'ingegneria civile piemontese, proprio perché non era mai stata ingegneria statale, non aveva. Quindi, se i due momenti qualificanti, a mio giudizio, dell'esperienza, sempre per quanto riguarda la crescita dei corpi tecnici del momento francese, sono l'esperienza del corpo di tecnico da un lato e l'esperienza degli ingegneri francesi di corpi strade nel suo territorio, Savaldo, o sul territorio piemontese dall'altro, la chiave di lettura per poi leggere il rapporto amministrazione statale tecnici nell'età della restaurazione è quello non solo dell'espansione dei quadri tecnici amministrativi, ma il loro affidamento non più agli ingegneri militari ma agli ingegneri civili, che progressivamente si assumono anche competenze che prima erano appunto affidate agli ingegneri militari. È indubbio che di tutti gli stadi prioritari, quello che presenta sul lungo periodo una più coerente politica di dotazioni infrastrutturali è il Piemonte. La restaurazione vede la ripresa di una vivace politica di sviluppo della rete stradale, in funzione chiaramente anti-austriaca, in direzione del Roncenise da un lato, di Genova dall'altro, con l'obiettivo di riportare il porto di Genova agli antichi splendori e di fare non solo il punto di arrivo di una direttrice con la Svizzera per gli S4 della Lombardia, ma anche di candidarlo come punto di transito della cosiddetta Valigia delle Indie. Anche la politica ferroviaria, pur non precocissima, ha una sua accelerazione nel 1937 quando si diffonde la notizia dell'iniziativa austriaca per la direttissima Milano-Venezia, con il timore delle conseguenze fortemente negative che questo avrebbe portato per il commercio genovese. Superate dopo il parere favorevole dei tecnici inglesi che erano stati appositamente chiamati per risolvere questo problema, le perplessità circa la fattibilità tecnica della ferrovia del Versigioni, nel 1845 lo Stato crea una specie di catena delle strade ferrate diretta dall'ingegnere Bartolomeo Bona, che si assume il compito di eseguire direttamente le linee principali del progettato sistema ferroviario Savaldo, da Genova a Torino per Alessandria e Asti con diramazione al Lago Maggiore, passando per la Rosellina e Novara. Negli anni 50 invece poi si svilupperà di fronte agli obiettivi di difficoltà finanziaria dello Stato invece una politica di concessioni con l'intervento sia di capitali privati che stranieri, soprattutto inglesi. Ecco, lo strumento tecnico principale per questa politica dei lavori pubblici, a parte l'apporto di tecnologia straniera sia in inglese che poi successivamente belga, comunque è il Corpo del Genio Civile. Il Corpo del Genio Civile viene istituito nel 1816 nell'ambito di quella dell'organizzazione dell'amministrazione statale che viene operata dalla restaurata monarchia secondo un sistema politico-amministrativo-finanziario che è inizialmente piuttosto intricato e che però andrà chiarendosi e articolandosi con l'evoluzione della politica sabauda dal regime di spoglio arbitrario di Vittorio Emanuele I, di Carlo Felice, alla monarchia amministrativa di Carlo Alberto, alla monarchia costituzionale, seguita la proclamazione dello Statuto. Sarà Cavour che porterà a compimento l'ordinamento dell'amministrazione statale tra 1952 e 1953, introducendo il nuovo principio costituzionale della responsabilità ministeriale e concentrando nei ministeri tutta l'amministrazione, abolendo il modello organizzativo delle aziende che affiancavano in precedenza con funzioni esecutive in ministeri e sostituendole invece con le direzioni generali, che sono competenti per gli uffici relativi allo stesso ramo dell'amministrazione e sono parte integrante dei ministeri. Tra queste direzioni generali, una è appunto la direzione generale dei lavori pubblici. Allora, adesso io mi rendo conto che il tempo scorre molto veloce, per cui citerò soltanto i tre corpi tecnici che si vengono articolando nel periodo della restaurazione. Il Corpo Reale del Genio Civile, che appunto nasce nel 1816 come inizialmente articolazione del Corpo del Genio Militare, e questo è abbastanza significativo, sempre in questo discorso di attività di trasformazione, che invece assume una funzione autonoma, una sua struttura autonoma nel 1825, e che i cui membri sono, però devono vestire un uniforme, non possono fare libera professione e vengono distribuiti nelle diverse province dove hanno l'obbligo della residenza. Nel 1825 viene anche fatto un tentativo di costituire una scuola di applicazione per gli ingegneri del genio civile all'interno dell'azienda economica dell'interno. Questa scuola di applicazione aveva l'obiettivo di insegnare l'applicazione delle scienze matematiche ai lavori pratici dell'ingegneria civile. Si sarebbe articolato in 3 anni e l'ingegnere alla fine, cioè l'ingegnere allievi, cioè già inseriti nel corpo del genio civile, dopo aver appreso però la laurea in ingegneria idraulica all'università, dopo 3 anni in cui dovevano dimostrare di aver seguito i corsi, aver superato gli esami e aver dato lodevole saggio di morale e condotta, sarebbero stati ammessi definitivamente al corpo dopo essere stati esaminati sia dai membri del congresso permanente del genio civile, cioè per l'organo direttivo, sia dai professori dell'università. Ecco, io di questa scuola non so altro se non la legislazione, anche perché in realtà ci sono dei problemi di accesso alla documentazione, perché la chiesa di Torino, la sezione della chiesa di Torino è in ristrutturazione. Comunque, quello che possiamo dire è che nell'83 chiude. E questa scuola è praticamente l'altra faccia della medaglia di quella scuola che viene istituita insieme al Corpo dei Minieri nel 1822, quando appunto viene istituito il Corpo degli Ingegneri delle Miniere, un consiglio delle miniere, una scuola teorico-pratica di mineralogia a Moutier e non a Torino, proprio perché anche questo avrebbe dovuto favorire la didattica pratica, scuola che si apre nel 25 e poi chiuderà nel 37. Vabbè, su questa scuola ha studiato Donata, che con noi, quindi al massimo lascio a lei se mai ha dovuto intervenire su questo aspetto. Comunque sono esperienze brevi ed esperienze che chiudono, non sappiamo bene perché, probabilmente fondamentalmente per motivi finanziari, di difficoltà ovviamente. Volevo sottolineare un'altra cosa importante per quanto riguarda il corpo degli ingegneri civili, cioè la progressiva sottrazione delle attribuzioni da parte degli ingegneri civili rispetto al genio militare. Un esempio tipico è quello che viene nel 52, quando il servizio tecnico relativo ai lavori di porti, spiagge e fari passa dal Ministero della Guerra a quello dei lavori pubblici, e 2 anni dopo, nel 54, il servizio viene regolato alla dipendenza di nuovi uffici elettorali del genio civile, mentre a Genova viene creato un nuovo ufficio per la superiore direzione e descrizione di questo servizio. Siamo nel 54, ricordiamo che nel 53 c'è stata la legge di abbassamento dei dazi sul grano, nel febbraio del 54 viene inaugurata la Torino-Genova, c'è tutta una... sono anni in cui vengono rinnovate le strade e nello stesso tempo viene anche impiantata la rete telegrafica. Nel 55 abbiamo praticamente il rovesciamento della storia che avevamo visto iniziare nel 1755 con la creazione del corpo degli ingegneri militari, perché in occasione della guerra di Crimea il ministro della guerra chiede che vengano immessi nel corpo del genio militare ingegneri civili laureati e addirittura studenti del terzo anno di matematica, per riempire i ranghi del corpo del genio militare che non sono sufficientemente coperti da ufficiali che escono dalla scuola di applicazione per le armi brutte. L'ultimo, ho accennato al corpo delle miniere, accenno adesso brevemente all'ultimo grosso corpo tecnico, che è quello relativo agli ingegneri dei bagnali. Nel 1820, con la riforma dell'amministrazione delle leggi canali, si costituisce l'azienda dei canali di bagnali. Nel 1838 vengono definiti con più precisione i compiti del personale dell'amministrazione, che agisce comunque sempre d'intesa con il genio civile: il direttore, l'ingegnere ispettore, gli aiutanti e i guardiani. Spetta agli ingegneri dei bagnali la sorveglianza dei canali esistenti, della distribuzione delle acque, in particolare del regolare funzionamento di bocche e bocchette di derivazione, la progettazione e l'esecuzione dei grandi lavori di riparazione e manutenzione ordinaria. Nella sua idraulica agricola, Nodol de Buffon, che è l'ingegnere capo dei ponti e strade di Parigi, ricorda come nel Piemonte orientale agisca un'amministrazione speciale perfettamente diretta e secondata da altri ingegneri che gestisce un'eccellente rete di canali i quali distribuiscono il più liberamente possibile benefici di acqua all'agricoltura fiorente. Prima di passare a vedere dove si formano questi ingegneri e di arrivare alla legge Casati, se non sono in un ritardo mostruoso, non sono in un ritardo mostruoso, non sono in un ritardo mostruoso. No, mi spiace. No, perché io poi sono andato fuori, come anche se non ho oggi, quindi posso tagliare. No, posso tagliare. No, io lascio. Io ho un problema di treno aereo, di coincidenza aereo, quindi non vorrei, mi dispiace che non rompere, no? O rientrare a questo. Cioè, allora devo se tu pensi di finire in 5 minuti io rimando, altrimenti devo, sono costretto ad andare via, quindi perdo la propria coincidenza. Niente, no, dovevo fare il discorso sulla formazione, che forse è un po' più lungo di 5 minuti, però mi spiace molto perché. Vai, vai, no, tranquilla. aveva avuto delle grosse difficoltà anche a diventare ingegnere perché i suoi genitori non volevano che occupava la professione di ingegnere di Sdicevole per uno del suo rango, è abbastanza significativo, mi sembra. Ed è abbastanza significativo anche se noi teniamo conto che proprio poche pagine più in là degli atti parlamentari si discute sulla pensione da dare alla vedova dell'ingegnere Pietro Permigotti, a cui per vari motivi non era stata assegnata la pensione. E si dice: l'ingegnere Pietro Permigotti servì il paese per 38 anni, non chiese il riposo se non dopo che, affranto dalle fatiche, non credeva più di poter utilmente servire il proprio paese. Anche dopo il suo collocamento a riposo, molti furono i lavori speciali che gli furono affidati e che, benché nella tarda età di 72 anni, adempiva con sommo zelo e solerzia. Cioè, ormai l'ingegnere civile come funzionario e servitore dello Stato ormai ha assunto una sua figurazione complessa e definita. Adesso cercherò brevissimamente di fare un discorso sulla formazione, su come siamo arrivati a questi benedetta scuola di biografia. Allora, il luogo di formazione di tutti questi ingegneri, a parte la nostra famosa cultura delle corporate tecniche, e a parte un'altra cosa che vi dirò un po' più avanti, è comunque l'università. Riaperta nel 1814 come facoltà delle arti, questa facoltà delle arti nel 1822 prende il nome di facoltà. Del Ministero dei Lavori Pubblici, sia anche la riorganizzazione del corso di matematica in generale. professore, le costruzioni ferroviarie avevano preso un grande sviluppo. Un nuovo orizzonte si apriva ai nostri giovani intelligenti. Quindi tutto lei viene solo dal discorso che abbiamo visto noi. Io capii che dovevo aiutarli a prendervi parte, dando nozioni precise sui principi fondamentali della scienza degli ingegneri e sulle applicazioni più importanti, sia di architettura, sia sulle diverse costruzioni che sono di competenza degli ingegneri. Avevo solo un corso annuale, dovevo dare delle lezioni in cui i principi direttivi e le diverse questioni che si riferiscono alle costruzioni dovevano essere concentrati con la maggior chiarezza possibile. In realtà che questo corso presentasse dei vuoti vistosi dal punto di vista dei contenuti disciplinari, che mancasse un collegamento diretto con la pratica professionale, in altre parole, che questo corso di ingegneria, i giovani laureati iniziassero la professione con comunque più di giugno del nesso che abbia tra la teoria e la pratica, era ben presente ai docenti, discorso che avevamo visto anche ieri quando parlavamo del carattere generale, e ai responsabili governativi e ai pubblici amministratori, tenendo presente che poi le funzioni si trovavano alla stessa persona, perché Giulio e Andrea sono docenti all'università, ma sono l'uno senatore e l'altro deputato. Giulio fa parte della Commissione Superiore di Statistica, cioè sono le stesse persone che girano per gli stessi uffici e si pongono gli stessi problemi. Quali sono i mezzi per risolvere il problema? Uno è quello di mandare l'ingegnere all'estero. Sono numerosissimi ingegneri piemontesi che completano all'estero la loro formazione, un perfezionamento che non era solo a titolo individuale, ma che provvede anche lo Stato, sia per gli ingegneri appartenenti al corpo delle miniere che per gli ingegneri appartenenti al GNCME. E qui cito questa frasetta di Richelmi, che secondo me sembra abbastanza significativa per vedere proprio la testa, cioè l'immagine di fondo. Si prescelse particolarmente la Francia perché, essendo i corsi per gli ingegneri divisi in due strade, la scuola di matematica pura detta politecnica e quella di applicazione, si potrebbe tenere il corso fatto nell'università dei nostri studenti come equivalente al primo stadio, rimanere loro da percorrere il secondo. Altri mezzi per risolvere questo problema di quello scollamento è ad esempio quello che tenta di fare Giulio fondando l'Istituto Tecnico. L'Istituto Tecnico, che in realtà non è un corso superiore, ma è un corso diretto, aperto a tutti, anche all'inizio sono corsi serali di arti meccaniche e di chimica applicata alle arti. Ma qual è il discorso questo che c'è sotto? È che Giulio ha questa grande fiducia nel valore progressivo dell'istruzione, in particolare dell'istruzione tecnico-scientifica, è convinto che la scienza esposta in modo adeguato può essere comprensibile a chiunque e quindi anche la scienza deve essere la guida delle arti meccaniche. Ma a questi corsi intervengono anche gli ingegneri, cioè a un certo momento c'è il solito discorso che di fronte al fatto che l'istituzione non ha, gli ingegneri frequentano questi corsi, ma da questi corsi serali nel 52 nasce il Regio Istituto Tecnico, che si organizza anche non soltanto con una serie di materie, ma anche con laboratori, con lezioni mineralogiche e collezioni di macchine. Ma anche all'interno dello stesso ambiente accademico, sto arrivando quasi alla fine, mi spiace veramente per te, mi sono resa conto che sono veramente una sottorona. Sì. Anche all'interno dello stesso ambiente accademico esiste l'esigenza di una riforma degli studi. E questo avviene in due modi. Ci sono iniziative per intensificare gli aspetti pratici della didattica. Negli anni 50 noi vediamo che, ad esempio, Menabrea dedica un giorno alla settimana alle lezioni pratiche, che nel 58 sono, ad esempio, lavori pratici di rilevamento dei fabbricati delle officine delle ferrovie dello Stato. Nel 55 l'ANCE, ad esempio, destina una parte del bilancio, storna una parte del bilancio prestato alla biblioteca universitaria per pagare le esercitazioni agli studenti che frequentano le scuole di costruzione, che devono essere condotti fuori Torino per vedere i grandi lavori. Dal 56 vengono attuate esercitazioni pratiche di geodesia con il concorso del personale e gli strumenti che vengono messi a disposizione dall'amministrazione del catastro. Ma queste, diciamo, sono elementi correttivi pragmatici che si muovono all'interno dell'esistente. In realtà gli anni 50 conoscono un'attività di riforma degli studi fisici e matematici, in parte realizzata e in parte no, che va brevemente ripercorsa. Innanzitutto nel 48 viene varato l'ordinamento in due distinte facoltà, di belle lettere e filosofie, di scienze fisiche e matematiche. All'interno della classe di scienze matematiche sono compresi solo i professori di matematica, all'interno della classe di per queste discipline di scienze naturalistiche. Mentre i piani di studi per gli ingegneri non vengono rinnovati, vengono invece ridefiniti i corsi per gli aspiranti al professorato di fisica e geometria, al quale corrisponde il grado di dottore in fisica, e quelli invece per i professori di storia naturale, a cui corrisponde il grado di dottore di storia naturale. In realtà c'è stato anche un tentativo di rielaborare, di riformare il corso di matematica, e questo tentativo di riforma viene fatto da Mirabella, il quale introduce per la prima volta il corso di fisica sperimentale al primo anno, il corso di chimica al secondo anno e il corso di mineralogia al terzo anno, e divide la meccanica razionale in un corso di meccanica razionale e un corso di meccanica applicata alle macchine. È però un tentativo che viene bocciato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e resta lì nel 50. Nel contempo prosegue la ristrutturazione della Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche. In questo senso che nel 56 il Ministro della Pubblica Istruzione, dopo che c'è stata la grande richiesta del Ministro Lanza, promossa, cioè la grande richiesta sull'istruzione pubblica promossa dal Ministro Lanza da parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, invita, afferma che non soltanto sulla base di questa relazione, ma anche sulla base del parere di diversi uomini competenti, si dichiara persuaso che altri corsi, che tra gli altri corsi, pur quelli di matematica e di architettura civile, bisognano di un riordinamento per il quale si possono meglio rispondere allo scopo della loro istituzione e continui progressi della scienza. Quindi viene affidato alla classe di matematica il compito di fare questo nuovo, ordinamento del corso di matematica, un compito che la classe di matematica impiega tantissimo tempo a espletare, praticamente lo conclude soltanto nel 58. E io non lo conosco questo piano, perché era chiuso nei verbali del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, non sono ancora riuscita a metterci le mani, tu sai qual è la difficoltà, però so che sono qui. Ma questo ci permette lo stesso di capire un po' come sono andate le cose, perché nel contempo, nel 56, c'è stata un'ulteriore riforma della classe di scienze fisiche con la creazione di tre corsi, di fisica, di storia naturale e di chimica, corsi quadriennali alla fine dei quali si può ottenere una laurea speciale di dottore. Particolarmente significativo è il fatto che nel nuovo piano di studi di fisica finalmente vengono introdotti anche gli insegnamenti di matematica, cioè per diventare dottore in fisica bisogna anche insegnare, bisogna anche studiare analisi finita e infinitesimale, geometria descrittiva. E del resto è molto interessante quello che viene detto ad Angelo Genocchi quando gli viene affidata nel 58 la cattedra di algebra e geometria complementare. Anziché affogare le menti degli studenti con una molteplicità di teoremi, tutti di uguale utilità, essere assai preferibile di limitarsi alle cose più fondamentali e veramente indispensabili. Non dimenticare che lo scopo della matematica astratta nelle nostre università è quello di limitare la massima parte degli allievi alle applicazioni dell'arte degli ingegneri e un certo numero di quelle di fisica. Allora, a mio giudizio, quello che probabilmente si stava giocando non era soltanto il fatto di riordinare gli studi di matematica, ma quello che si stava giocando era anche la creazione di un corso autonomo di matematica, non strettamente finalizzato alle applicazioni dell'ingegneria. E questo è probabilmente il grosso passaggio che si sta realizzando in questo momento. E allora la soluzione della scuola di applicazione, che all'inizio è una scuola di applicazione annessa alla Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche, entro cui viene istituito un corso autonomo di laurea in matematica, è la soluzione che in qualche modo è in linea con tutta questa storia culturale istituzionale con cui vi ho afflitto da più di un'ora, scusatemi veramente, con questa esperienza formativa che gli ingegneri mandati alle scuole di educazione francese in primis e Sella hanno imparato, e non per niente è Sella quello che arriva a questa soluzione della scuola di applicazione annessa alle facoltà di matematica. E non per niente nel progetto di Sella era soltanto la scuola torinese che doveva essere l'ultimo e più elevato ordine di istruzione tecnica, una scuola per ingegneri laureati con un curriculum di studio molto approfondito, ed era questa la scuola dove lo Stato avrebbe dovuto attingere i propri corpi tecnici. Non vado avanti perché ho veramente esagerato. esagerato, poi se mai nella discussione dirò quello che è successo dopo, se non avremo tempo, e scusate per avermi interrotto. Grazie ad Alessandra Ferraresi, perché il quadro è davvero ampio e gli spunti tantissimi, soprattutto appunto questa, diciamo, è come di ritorsione, in qualche modo abilità e civile, insomma, anche un sacco di luce, anche in merito. Soprattutto tra militari e civili, magistrali, insomma, c'è un conflitto aspro e i civili sembrano avere la mente. Invece è vero. Quindi io non lo so, a questo punto. Certo, sì, sì. Poi alla fine sacrificheremo purtroppo la discussione. No, scusa, io mi sono proprio, diciamo, ci sono già molto ieri sera di guardare. Posso ridurre perché io va molto fuori con i programmi tecnologici. Oggi posso fare sarebbero tantissime perché però i temi sono diventati rilevanti. Ecco, volevo dire, è interessato la questione dei cadenti con chiesa, no? Quindi questo l'avevo già fatto la sera. Sì, sì, ecco. Cosa ti interessa dire in Francia? Probabilmente mentre le cose poche succedono in realtà, penso che fosse ancora la gente borghese, no? Sì, ecco, alle cose di l'intero del pensiero, invece si voleva i certificati geografici, sì, infatti c'è una cosa della sua te, no? Che non si può trovare, che non è favore come ingegnere, come artigliere, ma comunque forse non è una cosa di... E ecco, quindi invece il Piemonte, che è molto già, quindi comprende come anche proprio alla luce della costituzione di una comunità di democratica che ha un fatto, secondo me interessa. Sì, qui lo so, no, c'è stata una volta tarda, però di solito abbiamo un modello da zero, però in questo caso la devono pure essere. L'importante era di essere in civile condizione, ovviamente, è ovvio. Però non era richiesta il titolo. Non assolutamente, non è assolutamente, i quadri di metodo sono assolutamente richiesti. È richiesto di superare il concorso e, vabbè, qua non ci dobbiamo fidare di quello che dice Ferroni. Ferroni dice che lui ha preso in considerazione la documentazione e che il criterio di tutto pratico è stato sostanzialmente rispettato nei concorsi. Tu, poi sempre in quest'ambito, ecco, volevo sapere se si riesce a capire, probabilmente sono io che non ho seguito bene, e a un certo punto ci sono i cocker mai scalati, quanti artiglieri, impugnati, eccetera. Sì. Ecco, ma come formazione? Seguivano poi le stesse, si riesce a capire se seguivano lo stesso con gli studi e poi si separavano. Comunque, faccio una domanda, per esempio, qua la periglia un po', non per le stesse, per quello che ho detto, ma quella poi è ricordata, ricordata con la collega, in pratica è accadere insieme con Genova e l'artiglieria e solo l'ultimo anno, questi tre, poi la collega con le robe, qualche fratello di Bosco, anche, no? Ecco, e solo l'ultimo anno che c'è la differenziazione tra ufficiale di artiglieria e ufficiale di genio, questo in questa nella tradizione che ci sono altre si riesce qui a... loro fanno 5 anni comuni, quindi hanno anche loro hanno 5 anni comuni e poi si separano gli ultimi due anni, no? Gli ultimi due anni si separano e fanno gli anni successivi una specializzazione differenziata per l'artiglieria, esame delle pompe, esame del fuoco, artiglieria pratica e per le fortificazioni dei segni studi. Quindi comunque c'è comunque ancora si per fare. Poi mi sono separati per la battaglia. Poi sempre su queste questioni, ecco, mi ha incuriosito il fatto che i parenti, i genitori, forse prima in Andrea, non volevano che cosa pensate? Dovesse fare l'avvocato. Sì, dovesse fare l'avvocato. Dovesse fare l'avvocato medico. Perché l'ho portato. Già da 700 anche in terra, non lo smetto, ma anche in terra si significava ancora di più fare il cimiero, dovrebbe fare il matrimoniale, la carai, visto che si poteva fare i parenti di Smith per restare agli amici e per fare quando Smith decide di portare il lavoro, oppure portare l'avvocato, portare il meccanico per fare il volta all'epoca, 1828, che addirittura uno dei miei compagni di università che seguiva il corso di diritto, quando ha saputo che io seguivo quello di matematica, mi dice che io avevo cominciato un corso ben inferiore in dignità e che non mi avrebbe più parlato. La cosa particolare è che a scalare il Consiglio Universitario Italiano, quando si diventano di livello più o meno universitario, la scuola superiore di agricoltura, gli studenti del Politecnico a Milano chiamano quelli della scuola superiore di agricoltura e mi dire che merda. Lamento questa cosa, c'è un'applicazione parlamentare, quindi c'è proprio un e invece quello che non ho detto, che adesso comunque non vi dico, a sprolocchiare, è che invece quando si pongono le scuole di applicazione, gli ingegneri sia a Milano che a Torino hanno una fortissima coscienza della loro dignità, sì. Del fatto che insomma no, sono gli ingegneri, loro non viene riconosciuto, ma loro sono ben consapevoli che i professori di ingegneria studiano e lavorano molto di più degli altri e che gli studenti lavorano. Sì, praticamente subito, cioè, c'è proprio questa creazione di questo fortissimo senso della propria dignità professionale. Mi ricordo la ricerca che si definisce gli ingegneri poeti della linea del peso. Io volevo fare solo un'osservazione su Magliani, no? Sì, anzi, vorrei. Però è una certa importante. Cioè, qui, ecco, la cosa si è passata un po'. Osservato il fatto che il monumento di Magliani è stato fatto dopo l'unità. E i soldi hanno cominciato a raccogliere di film, però il fatto è questo, che Magliani, quando è morto, la sua commemorazione che è stata fatta all'Accademia di Torino non è stata stampata sui campi accademici, neanche quella di Saluzzo. Perché appunto il caso di Magliani, c'è il fatto che Magliani, quando ci fu appunto la missione del Piemonte, 1802, la missione Piemonte avvenne in base al Senato Consulto, cioè un atto del Senato conservatore di cui Magliani faceva parte. E la proposta di ammissione del Piemonte alla Francia fu proprio firmata dalla Francia. E questo è forse l'atto più rilevante, cioè non vorrei che Magliani venisse considerato organico al sistema stampato. Ricorderebbe la matopola, questo è ragione. Ma lo stesso Saluzzo non è commemorato negli atti della Carina, non so se ce n'è mai che due dei fondatori della Carina su tre cigna sì, ma solo tardivamente commemorato, ma gli altri due non sono commemorati negli atti della Carina, perché appunto non lo sarebbe indicato nell'angelo. Poi un'altra cosa che secondo me è un'osservazione, cioè, insomma, lo dico perché riguarda anche un po' il piccolo Ferrara. Cioè Ferrara era l'università, ma era napoleonico, non c'era più, però c'ha un liceo e un altro professore. E c'ha le persone appunto come Sereni, invece di assicurare Ferrara, ma sono nuova. Appunto Cavalieri San Berto che era di Comacchio, ma sono di Apollonia. Dico, tutto sommato, ecco, voglio dire, queste cose conto, quindi deve essere fatto anche tu, cioè io credo che se uno fa lo studio dell'Università di Torino tagliando tutto quello che c'è attorno a Torino, nel periodo napoleonico le cose vanno male, cioè si perdono carte, però non è il modo per fare questo, perché ora tu devi appunto di mettere vedi le corpore tecniche, devi andare a studiare le corpore tecniche, devi considerare magari i lavori che si fanno sulle Alpi, che vengono fatti da ingegneri francesi, da ingegneri stessi, un Musso Furiero, uno dei direttori, uno dei grandi stati alpini, insomma. Quindi ecco, insomma, c'è questa cosa metodologica, insomma, cioè che è l'elemento che rappresenta. Penso che sia d'accordo. Sì, infatti, cioè, un discorso estremamente più complesso e più organico che è molto fortuna per voi. Sì, capisco. Bene, il dilemma adesso è pausa o non pausa, io direi che dobbiamo sorvolare la pausa. Scusatemi, così. lunga, però molto, molto stimolante, perché per esempio questa ancora un'osservazione proprio per cose diverse, no? Che ha studi fisici, evidentemente è una tradizione, perché anche Paleocca all'università lui ha studiato il problema, poi non si fa laureare, seguiva i corsi liberi di matematica, diventa ingegnere, il discorso per molti, perché il fatticiale ancora piccolo è quello, è un'ingegnere di produzione, fatto per lì. Poi l'altro elemento, la presenza di ingegneri, questo è un altro tema mio, dei corsi serali, quando non ci sono ancora delle vere e proprie scuole di applicazione, ci sono delle scuole talmente fatte, il momento di trapasso, è un fatto molto interessante e lo ritroviamo, a Milano, dove tra l'altro Giuseppe Colombo, e lui comincia con quando è giovane, la famiglia attualmente, perché non si sa, la famiglia c'è, c'è la famiglia che poi potete fare da la mia parte, fa già dei corsi sostanzialmente, quando non c'è ancora, quindi prima della legge pesante, la legge pesante, non fa una comunicazione, perché va solo la scuola di comunicazione di Torino e l'istituto superiore. L'ha detto subito col tecnico, anche se diventerà un tecnico degli Ure sono 37, invece Torino dovrebbe andare per 6, se non va in Napoli, che invece lo fa con il tecnico. Ecco, una cosa importante è ricordarsi che la scuola, sì, scusa se mi interrompo, sì, no, ma a parte il museo industriale, il fatto che le uniche due scuole che si dice che la scuola di applicazione di Torino è il modello, sì, è vero che è il modello, però è anche vero che l'unica che veramente si modella su quella di Torino per il Napoli, perché tutte le altre poi hanno tutto un'altra cosa. E poi con la separazione è molto più lunga l'acquisizione del biennio, ma è un processo molto più difficile, che poi però sul problema è quello, riuscire ad avere anche il controllo del biennio. Comunque c'è questa presenza anche a Bologna, tra l'altro, del Latini Valeriani, questo studio tecnico, che vede svolge questa funzione qualche più o meno analoga anche a quella che era stata di coraggiamento da altri misteri, svolge a Milano, di nuovo con alcuni di quelli che poi sono ingegneri, che abbiamo con il legge della scuola di applicazione bolognese, lavorano anche nel campo dell'istituto tecnico, quindi sono già da tantissimo tempo. Allora, io fatto una breve premessa, le motivazioni per cui ho ingegneri sono molto diverse da quelle da quelle. Perché io mi occupo di storia della scienza e della tecnica e per quel tempo devo fare i conti anche con i tecnici e con gli scienziati. Ora, dei tecnici e gli scienziati si può dire quello che diceva dei filosofi, che non nascono di fondo, non è che in un certo modo è fare storia della doppia, tra di voi ci sono i filosofi che sembra che ci siano, gli scienziati e anche i tecnici. Studiare anche la loro formazione, quindi attraverso quale istituzione passa, significa leggere storia della serie della tecnica, un documentario che è molto diverso, ma una cultura formalissima, un canale di tecnologia epistemologica, una serie di teorie. Si scopre che ci sono delle posizioni dei fatti, che sono molto più riconosciute a questioni che non hanno magari la parte di una grossa rilevanza teorica, però sono di qualche tipo di interesse. Per quanto riguarda poi il tema che avevo scelto, volevo arrivare anche al treno. Solo perché poi negli anni 30 il termine era poi si significava, perché era la metà degli anni 30 che la scuola di applicazione, comunque vogliamo andare a chiamare il tecnico, diciamo la scuola di ingegneria in generale, acquisiscono proprio lo status di tecnologia di prima erano tutte scuole definite anche dalla legislazione, tutte scuole annesse all'ambito universitario, però erano delle è vero che quasi sempre, poi c'era una cosa tendenza, Paolo ovviamente era un po' molto tendente, forse potrebbe anche essere Torino, ma no. Tanto è vero che con la legge prevedendo la partecipazione perlomeno del direttore della scuola e al direttore ai consigli di facoltà, succedeva che poi non venivano toccati da solo. C'era stata una specie di nuovo convegno, l'università continuava a mantenere giurisdizione su queste scuole, se non altro anche posto di dottore parmigiano, giovane assistente, in attesa poi di fare la vera e propria carriera accademica, anche se non stava svolto nell'università, e meno lo scuola di Venezia. E la scuola della interpretazione, in compenso, acquisiva, o comunque, spero che si vede, si massa, acquisiva una relativa autonomia, per la questione della libertà, e questa qui era un po' la tendenza che si diceva. Però questo era sentito. Dell'università che è sempre pronto a partire.